Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Veloce oggi, venerdì, dai, va bene, dai, venerdì, Drago, un'altra settimana che è finita, festeggiamo, sì, come infatti, sempre. Infatti sono preoccupato perché quando finisce la settimana i bambini tornano a casa e lì a casa succede il peggio, nel senso che tutta la disciplina che hanno assorbito in questo ambiente pieno di suordentone, pieno di autorità, là viene vanificato, viene rovinato perché i genitori rovinano i bambini. Ma tu cosa ne sai? Tanto tu cosa ne sai? Vabbè, è una cosa così, assodata, perché così i bambini non vogliono fare il sonnellino il pomeriggio e non fare il sonnellino, vogliono stare davanti alla televisione tutto il pomeriggio e stai davanti alla televisione. È così. Beh, ma meno male, no? I bambini non possono mica crescere con l'autorità che gli soffia sul collo, poi crescono con un'inguaribile avversione nei confronti dell'autorità e sai cosa succede? Il terrorismo, come il terrorismo? Beh, sì, è colpa dei genitori. Dall'asilo nasce. Vabbè. Comunque, dai, Kappa, di quello che vuoi. Io facevo tutto questo discorso semplicemente perché sono tre settimane che si parla di insonnia dei bambini. E da che cosa è causata l'insonnia dei bambini? Dal fatto che i bambini vanno in loop perché si agitano quando i genitori gli lasciano fare tutto quello che vogliono. Vabbè, ma scusa, tipo andare a dormire tardi la sera è deleterio, perché i bambini poi si caricano di energia, non riescono più a dormire. Quando il bambino ha sonno va a dormire, quando il bambino ha fame mangia. Come i cani, no? Il cane vuole mangiare, mangia. Il cane non vuole dormire, non dorme, perché guarda che non dormire poi fa bene. Ai bambini fa malissimo. Ma è un trend non dormire. Sì, bisogna dormire poche ore per notte ormai. È la modernità, ha cominciato. Ma come? Ha cominciato il Premier, il bambino Premier. Ah, è sempre lì che dice che lui dorme tre ore e poi si scatena nei bunga bunga e nelle cose più faticose e impegnative. Però poi dorme alle riunioni, infatti c'è sempre Bondi lì che è praticamente fisso a dargli i colpettini sulla spalla per svegliarlo. Ma adesso tanto Bondi si dimette. Vabbè, ma il ministro che lo sostituisce avrà anche lui la delega al risveglio del Premier, che è una delega molto ambita. Sì, ma poi c'è il bambino Letta che ha la delega allo spegnimento del Premier, si devono coordinare. Spegnimento e risveglio non vanno d'accordo. Sì, governare non è così semplice. Sembra tutto facile da fuori. C'è il Parlamento, c'è la maggioranza, c'è l'opposizione, ci sono le leggi da approvare, da discutere, eccetera, eccetera. Invece no. Invece il casino è proprio accendere o spegnere il Premier a seconda delle occasioni. Adesso, ad esempio, che vuol cambiare il nome al PDL, è venuta fuori la voce che si sarebbe fatto consigliare da chi? Da uno dei suoi nipotini. Cioè il bambino Premier chiede a uno dei suoi nipotini come lo chiamiamo il nuovo partito. Un tocco di fantasia. Ma qui il bambino Letta dovrebbe accendersi e spegnere a sua volta il bambino Premier. Però, spiega bene, come dovrebbero chiamarsi adesso questi qua? I popolari. Cosa c'entra i popolari? Cioè c'entra, perché intanto non deriva né dal Partito Popolare Europeo né tantomeno dal Partito Popolare ex DC di Castagnetti, te lo ricordi? Sì, vagamente. Ecco, sì, anch'io. Sì. Comunque questo i popolari deriva invece da Il Mondo di Patti. Da? Il Mondo di Patti. Ma è una soap opera per ragazzini, prodotta in Argentina, molto bella, svolta in una scuola d'arte per fighetti argentini. In questa scuola ci sono due squadre che si chiamano le Divine e le Popolari. Queste qua si sfidano cantando e ballando. Le Divine, tra l'altro, ci sono tutte delle bambine bionde con dei nomi tedeschi che non si capisce bene perché. E invece le Popolari sono più ruspanti, quelle di origine latina. Quindi i Popolari, dal Mondo di Patti, il nuovo partito di Berlusconi. Però un nome sfigato, no? Perché? Ricorda Martinazzoli, quello pieno di nei, come lo zio del bambino Alberto. Infatti il bambino Premier preferiva le Divine. Che i popolari, le Divine. Le Solo divine. Che le Divine poi dopo uno fraintende. Sì, il nome di un partito, le Divine. Sembra una roba da gay parade. Sì, te li devi vedere, sì. Non so, la russa con la parrucca bionda, le paillette e Gasparri. Forza Italia, come altre sigle, fanno parte del passato. Il futuro potrebbe essere quello di un partito popolare. Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Bambino Albertino? Albertino? Ma cos'è? Che aria sbattuta? Cosa c'è? Sono un po' di giorni che non dormo. E come mai? Non ci riesco, sono agitato. Cioè, appena chiudo gli occhi mi si riaprono immediatamente. E quindi? E quindi non dormo, no? E allora faccio impazzire i miei genitori. Già. Perché a quel punto mi diverto a disturbare anche loro, no? Non è che me ne sto lì bello calmo calmo con i miei sogni. È giusto. E come fai a disturbarli? Li disturbo con delle richieste, no? Cioè gli chiedo la camomilla, chiedo che mi raccontino una fiaba. Sì, ma perché soffri di insonnia? Sei un bambino, solo cosa fai? Bevi il caffè latte la sera? Perché no, sennò non si sì. spiega. Guarda che ma come no? Il caffè è un eccitante, sì, sì, Se lo bevi di sera poi non dormi, basta un goccetto. Anche i bambini come te, basta un goccetto. Ma non è che per caso hai guardato un film dell'orrore e ti sei impressionato? Perché a volte è quello. Non li guardo i film dell'orrore, io guardo solo Sandokan. Vabbè, allora sarà Sandokan. Non ti fa dormire, Sandokan. Sì, tigre, la scena della tigre anch'io quando salta. A volte avevo paura. Che bel fagor, ti ricordi? Vabbè, però a parte che anche il 30%, abbiamo detto, 30% dei bambini soffre di insonnia, vuol dire che il bambino Alberto rientrerà in quella percentuale. Qua, non ci preoccupiamo, insomma. Ma di cosa state parlando? No, che non ti devi preoccupare. Insomma, su 10 bambini, 3 sono come te che non riescono a dormire di notte. Quindi insomma, Vabbè, certo, io sto sempre in minoranza. Vabbè, ma scusa, hai provato a contare le pecore? Solito vecchio rimedio che va sempre bene. Su internet. Ma come internet? C'è un gioco che fa saltare le pecore. E tu devi contarle, no? In teoria dovresti addormentarti. Sì, però veramente bisogna contare a occhi chiusi. Su internet devi tenerli aperti. Come fai ad addormentarti? Io so solo che sono arrivato al massimo numero di pecore possibili. Era una cifra assurda. Tutta 99999. Ed ero ancora sveglio. A quel punto ho chiamato mia madre e le ho chiesto chi vinceva tra la balena e un branco di piranha. E lei? E lei mi ha tirato una sberla. Ma povero. Vabbè, ma scusa. E a quel punto lei mi sono messo a piangere, ho chiamato mio padre. E lui? E no, lui è venuto, E mi ha tirato una sberla più forte di prima. A quel punto ti sarei addormentato, rintontito dai ceffoni. Magari! A quel punto ero ancora più nervoso, no? E perché ce l'avevo a morte che i miei genitori. Altro che dormire. E adesso non hai sonno, ad esempio? Ma certo che ho sonno, ma non riesco a dormire, no? Perché l'insonnia non è che sei lì sveglio arzillo. No, sei sveglio e rincoglionito. Vabbè, giusto, 50 centesimi. Vabbè, stavolta ci voglio e pago volentieri. Comunque, a proposito di arzillo, forse mi è venuto in mente il perché non dormo più. Cioè? Sabato scorso siamo andati a trovare mio nonno all'ospizio. E lui non era per niente arzillo, anzi. Era a letto. Diciamo che era proprio... cioè, praticamente era lui il letto. Cioè? Sì, perché lui è 6 mesi che l'hai sdraiato a letto. Quindi e con un tubo in gola. Sì. E lì e fa il rantolo della morte. Ma come il rantolo della morte? Ma a bambino Alberto. Sì, rantola, Cioè, lì con la bocca spalancata, no? Che ci passa il tubo, E l'entrata della bocca sembra una caverna, una miniera, una cosa misteriosa. Ma povero nonno. Infatti, poverino. Poi però ogni volta andiamo a trovarlo. E mai una volta che parliamo un po'. Cioè, arriviamo, stiamo lì in piedi. Siamo ai piedi del letto a guardare il nonno, che non si muove, ma rantola. Poi a un certo punto mio padre dice: "Ehi papà, comunque ti vedo bene, noi andiamo che i bambini sono stanchi, E noi ce ne andiamo." Vabbè, e quindi a te in pratica impressiona questo rantolo della morte? Ma certo, ma è una cosa impressionante, È una cosa tipo... Vabbè, ma tu devi dire ai tuoi genitori che andare dal nonno all'obitorio, cioè all'ospedale, ospizio, ti impressiona e quindi poi non dormi, è lì il problema. Vabbè, perché secondo te io non gliel'ho detto? No, ma non c'è speranza. No, perché loro dicono: devi venire dal nonno perché lui ti vuole vedere. Ma cosa vuole vedere cosa che non vede niente? E non capisce neanche niente. Ma poverino, perché è vecchissimo, Avrà 60 anni? Senti, prova a parlarne a suor Dentona. Lei ha le sue famose goccine, quelle per calmare i bambini più vivaci, magari. Le goccine, finita la pacchia, Ma no, tu chiedile le goccine, no? Ma le hanno tolte la suora, non le ha più! Ma cosa? Ma sì, non può più dare le goccine ai bambini, Ma perché? Davvero? I genitori a un certo punto hanno protestato perché i figli tornavano a casa che sembravano aver fatto un TSO. Un? Un TSO, dai! Un trattamento sanitario obbligatorio! Ma come? E questi tornavano a casa e sembravano degli zombie da riprogrammare. Ma sono goccine, Però dopo un po' l'ho fatta smettere, di dare le goccine ai bambini. Niente. Però peccato, A me piacerebbe essere uno zombie da riprogrammare. Quello lì! Ma come il tarlo è quello lì? Torniamo domani, ma oggi è venerdì, quindi torniamo lunedì! il tarlo è quello lì. Vabbè, però prima bisogna salutare e ringraziare i bambini Alberto Caserini, grazie, Margherita Ina, grazie, e Carmelo Lauricella. Grazie. E quindi tananananana, no? Il tarlo è quello lì. E mandate i vostri nanananananà alternativi a chiedosilo@radio24.it, anche per il lunedì. Ma è nananananani. Nananananani. Chiedo asilo.